Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Griezmann, All Brighton, ancora lui! Calcio di rigore. Calcio di rigore. Griezmann contro Schmeichel. Parte Griezmann! Questa volta non sbaglia! Palla in rete, portiere dall'altra al 28esimo. Atletico 1, Leicester 0. Giocavamo contro una squadra forte, dura defensivamente e che il risultato sicuramente non era abultato. Per questo ci abbiamo trovato con quello che aspettavamo e abbiamo avuto tanta situazione di gol. Non abbiamo riuscito a fare questo secondo gol, però è un risultato positivo. Non abbiamo ricevuto gol in contra, abbiamo avuto la possibilità di fare gol e questo ci mette in una situazione di andare a giocare nel campo dell'oro, dove loro si sentono fortissimi, in un 50% della eliminatoria. Asensio, col mancino morbido! 100 volte Cristiano! Doppietta nella notte di Monaco! 2-1! Un gol da opportunista, un gol da fenomeno che si ritrova nel momento più difficile e cambia la storia. Abbiamo visto un grande Ronaldo, ha fatto 2 gol, poteva anche segnare anche uno in più. Sempre dicono che ogni tanto quando non fa gol è un problema, però quando è una partita importante sempre c'è. Sta lì e facendo gol poteva mettere anche il tercero. Buongiorno a tutti, Giorgio De Longo, il nostro dottore Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Abbiamo sentito ciò che è successo ieri in Champions League, tra poco ovviamente ne parleremo, con la vittoria della Real a Monaco di Baviera, sorprendente l'1-0 d'Atletico Madrid con il Leicester. Però oggi puntata, beh, direi da archivio di tutti i convocati, perché apriamo con una notizia di cronaca di 2 minuti fa: il Milan è stato venduto, il bonifico è arrivato, le firme sono state messe. Tra poco verrà diramato comunicato ufficiale, ne parleremo nella seconda parte di questa ora ampiamente, ovviamente, e vi invito anche a rivivere un'epoca di 31 anni e 29 trofei. Il Milan non è più di Silvio Berlusconi, ora è ufficiale da pochi minuti. Oggi puntata storica anche perché avremo 2 commissari tecnici, quello della nazionale italiana tra pochi minuti, Giampiero Ventura, e dopo le 15 Gianni De Biasi, 2 commissari tecnici, tra l'altro avversari nel girone mondiale. Intanto saluto Pierluigi Pardo e Filippo Maria Ricci, ciao ragazzi. Eccoci, ciao. Senti, buon pomeriggio. Vi chiedo a voi un primo rapidissimo commento sulla notizia di ora, cioè che il primo effetto: il Milan è cinese, non è più di Berlusconi, si attendeva, però adesso è realtà. Pardo. Si chiude un'epoca incredibile, un'epoca d'oro. Nessuno ha goduto come tifosi del Milan in questi 31 anni, almeno in Italia. E Berlusconi è stato un grande presidente, è un uomo ovviamente polarizzante, divisivo, perché ha fatto politica e quindi è stato molto amato da una parte e considerato invece come un avversario dagli altri. Nel calcio è stato indiscutibilmente, senza se e senza ma, un presidente enorme. E questo vale secondo me anche per Adriano Galliani, che è stato al suo fianco per tantissimi anni. Gli ultimi anni non sono stati così belli nel calcio, la memoria è corta, sono arrivate delle critiche, qualcuna anche un po' ingenerosa, ma quando dalla cronaca si passa alla storia e si contano trofei ed emozioni, penso che non ci sia da discutere. È stata veramente una pagina enorme della storia del calcio italiano, certamente. Filippo, un tuo pensiero. Strano. Ti fa strano, eh? Fa strano. Fa strano. Sì, molto strano. E bueno, ha detto già più o meno tutto Pierluigi, concordo pienamente. Posso aggiungere una cosa dall'estero, diciamo la visione dall'estero. Io, di questi 31 anni ne hanno fatti 17 fuori e il Milan è la società più importante d'Italia all'estero. Certo, ecco, adesso sarà anche una nobile decaduta, le cose vanno benissimo, però la storia resta lì, è il Milan di Sacchi, quindi anche il Milan di Berlusconi, all'estero. Adesso vediamo se la Juventus riuscirà, no? a entrare in questo solco. L'Inter ha vinto il triplete, però poi è sparita, sì. Milan ha avuto quella continuità e la capacità di rigenerarsi tante volte, sì, no? La prima è arrivata nell'89, verissimo, l'ultima quando era 2006 o 7, 2007, 2007. Quindi capisci, cioè capacità di vincere e rivincere e rivincere. Questa, ragazzi, è una grande, andiamo, è il club europeo. Ragazzi, andiamo sulla Spagna, sulle partite di ieri. Ho detto, questo è quello che è successo ieri in Champions League, perché io non considero la partita di Dortmund, non fa alcun testo calcistico con quello che è successo. Ha vinto il Monaco 3-2, però come fai a giocare una partita in quelle condizioni, una partita di quel tipo? Detto che chiaramente qui ci sono cose ben più gravi, ben più serie, ben più importanti, per cui insomma l'importante è che nessuno si faccia male, l'inquietudine resta, quindi poi alla fine il risultato sportivo perde un po' di significato, però non ne ha alcuno. Sicuramente, però siccome sentivo Tuchel ieri, gli altri, insomma, Borussia Dortmund aveva il sogno e la possibilità concreta di andare in semifinale di Champions League, ha approcciato legittimamente la partita di ieri con una tensione addosso enorme, non si doveva giocare, questo è banale. Poi è ovvio che il calendario in questa fase è complicatissimo, però che il Dortmund abbia avuto un danno enorme non c'è dubbio. I calendari si possono anche sistemare, cioè mi sembra che passino in secondo piano. Tu parlavi di scandalo, veramente... Filippo, una cosa, se a noi tre ci mettono una bomba sotto la macchina, difficilmente il giorno dopo andiamo a lavorare. Certo. Cioè, non vuoi dire, va bene il calendario, io lo capisco, però niente, troverà una soluzione. Sì. Non potevano giocare, vuol dire, è una cosa gravissima, a parte che adesso non è ancora neanche ben capito cosa è successo. Non si è ancora ben capito, lasciamo la cronaca al lavoro delle autorità, eccetera. Il fatto è che io sono d'accordissimo con te, questa partita non ci doveva essere in quel luogo, in quel giorno, cioè ieri. Ragazzi, andiamo abbastanza di corsa e vorrei dire che, tralasciando che non è calcio nemmeno quello che hanno fatto ieri gli hooligans dell'Ester in Plaza Mayor, che è stata devastata, e Filippo Marerici lo sa benissimo perché era lì, la sorpresa vera è quella che ha raccontato Pardo per Mediaset, e cioè la vittoria del Real Madrid sul campo del Bayern di Monaco. Sì, sorpresa. Vai tu, Chiarini, vai. Sì, sorpresa relativa, perché poi insomma Real Madrid, insomma, relativa in carica. Sì, voglio dirti, cioè non è che il Bayern abbia perso con l'Ester, con tutto l'affetto, Bayern ha perso contro i campioni d'Europa e la squadra che è in testa alla classifica in Spagna, quindi ci poteva stare, ha giocato senza Lewandowski. Detto questo, non mi aspettavo questo risultato, la partita ha avuto un paio di momenti decisivi che insomma l'hanno portato a girare nella direzione preferita da Zidane. Credo che l'espulsione di Javi Martinez sia stato il momento chiave. Ho parlato un po' con Ancelotti, ho sentito anche l'intervista, insomma lui ci crede ancora. Il fatto che il Real non abbia fatto il 3-1 qualche possibilità la mantiene, però insomma il Real che perde 2-0 in casa col Bayern, ecco, quella sarebbe una grande sorpresa a questo punto. Cosa ne pensi, Filippo? Ha chance, che ha detto Ancelotti, no, dall'inizio il Bayern Monaco era la mia grande favorita per la Champions League, e anzi ho detto nei giorni scorsi il vero rischio da evitare per la Juventus sarebbe quello di un doppio confronto con il Bayern di Monaco. Un paio di considerazioni: una, il rigore di Vidal, ovviamente. Beh, certo, sull'1-0, però se lo segna 2-0 e chiude il primo tempo sul 2-0 è un'altra partita, e l'espulsione di Javi Martinez, d'accordo. Forse ora si vedono in maniera diversa le tre semifinali conquistate da Guardiola, e quarto, sarebbe il quarto anno che il Bayern Monaco esce con una squadra spagnola, quindi una vera e propria allergia alla Liga. E poi una parola su Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo e Real Madrid sono uguali, non muoiono mai, sembrano sempre difficoltà, no? Non segnava da settembre, ne stavamo parlando ieri, e ha fatto due gol. Ha fatto due gol anche. La grandezza dei fuoriclasse sta nei momenti, anche o al di là dei numeri, nel momento in cui vai ad essere decisivo, secondo me. Perché tu puoi dire non segnava da settembre, eccetera, eccetera. Quando conta, lui c'è e c'è sempre stato. L'hai vista la striscia del Bayern è stupenda. In Europa, in casa, avevano perso 4-0 quando c'era Carletto con Real Madrid, no? Sì. Dopodiché hanno vinto tutte le partite fino a ieri. queste sono grandi. Questo è il classico d'Europa, no? È probabilmente la sfida più importante che c'è in Europa. E per me, Real Madrid di nuovo è lì, con un Bale accercato. E occhio a questo Asensio. Non so se per lui è rimasto colpito. Per me è un grandissimo caso. Ne parliamo dopo. Devo salutare Filippo Maria Ricci, ovviamente tengo Pierluigi Pardo, perché subito dopo il traffico sarà con noi il commissario tecnico della nazionale italiana Gian Piero Ventura, con cui potremmo anche approfondire queste euro considerazioni. Tutti convocati. Convocati. Allora, Pierluigi Pardo, abbiamo con noi il CT della Nazionale Italiana Gian Piero Ventura, vecchio amico di Radio 24 che saluto con grande piacere e con grande affetto. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Mister. Come va, mister? Ciao Pierluigi, bene. Ringrazio, tutto a posto? Bene. Io, tutto a posto. Pardo, però se tu sei d'accordo, partirei con il mister dalle euroconsiderazioni che stavamo facendo, poi ovviamente parliamo di nazionale, che è quello che interessa a tutti gli italiani. Però per fare fai tu un rapido riassunto di quanto abbiamo detto. Sì, anche perché la prima domanda che vorrei fare, perché quella più d'attualità, è per molestando che c'è un ritorno da giocare. La Juve che vince in maniera così convincente col Barcellona le dà speranza ulteriore in vista della partita che dobbiamo affrontare. C'è un nesso, c'è una correlazione, anche perché vediamo da anni di inferiority complex, no, nei confronti del calcio spagnolo, non solo noi ma tutta Europa, quando vede gli spagnoli di solito perde. Insomma, la partita dell'altro giorno può dare motivazione e fiducia, visto anche che ci sono tanti juventini in nazionale. In più, aggiungo, così esauriamo l'argomento, mister. Sì. Questa è la prima domanda. Le altre due che aggiungo io: non mi aspettavo la sconfitta della partita che Pardo ha commentato, cioè Bayern Monaco Real Madrid, non mi aspettavo la sconfitta di Ancelotti. E terza considerazione, che divide, secondo me i calendari sono sacri e sappiamo bene, lei sa meglio di chiunque, quanto sono intasati, eccetera, eccetera, però la partita di Dortmund probabilmente sarebbe stato meglio giocarla in altro momento, altra sede, altro luogo. Ma la sensazione, partiamo da Juventus-Barcellona, la sensazione, al di là della vittoria netta, al di là del comunque c'è un ritorno che non dà mai nessuna certezza, quindi bisogna farlo, però la netta sensazione è che sia iniziato, possa iniziare un ciclo della Juventus, parlo a livello europeo naturalmente, perché a livello italiano è già stato fatto e c'è pure continuità, ma a livello europeo ho avuto la netta sensazione che possa essere l'inizio di un ciclo della Juventus e la fine di un ciclo del Barcellona, perché al di là della vittoria è proprio la differenza di spessore che c'è stata in quella partita che ha dato questa sensazione. Questo è un augurio che faccio, perché a livello di Champions League la Juventus, a livello di nazionale, visto che dobbiamo andare in Spagna, mi auguro che sia un segnale importante sì, e di incoraggiamento per noi. Certo, quanto al Real cosa mi dice? Il Real è una partita particolare, purtroppo quando si incontrano squadre di questo spessore credo che possa succedere di tutto. Un rigore fatto o non fatto può cambiare la storia di una partita, ci sono campioni che possono determinare. Credo che comunque sia una partita comunque aperta, molto più aperta di quanto non dica il risultato iniziale, che sembrerebbe nettamente, ed è nettamente a favore del Real Madrid. Però credo che sia una partita molto più aperta quella di non quella della Juventus. Che quella della Juventus. Infine, a Dortmund, con quello che è successo, era giusto giocare o pensare a qualcosa di diverso? Ma io credo che qualsiasi risposta uno dà in questa, dà adito ad altre contrapposizioni, no? Perché nel momento che tu non giochi a valori, la tesi che sì, è chiaro, hanno capito fatto, benissimo. Se nel momento che giochi c'è chi dice, quindi io credo che lo sport debba prevalere su tutto, anzi deve essere proprio un deterrente alla stupidità delle persone. Vai, parlo con la nazionale. Adesso parliamo di nazionale, che tra l'altro ha dato dei segnali incoraggianti del presente e direi soprattutto del futuro. Però l'ultima cosa d'attualità gliela voglio chiedere, perché lei insomma è stato soprannominato Mister Libidine, ha sempre amato un calcio particolarmente offensivo, addirittura dal portiere che deve giocare il pallone con i piedi e che deve diventare un playmaker aggiunto, insomma la cultura del giocare a pallone sempre e comunque, più che di un calcio speculativo. Le chiedo se questi 31 anni, soprattutto quelli migliori della gestione Berlusconi al Milan, sono stati un'ispirazione. Poi lei non ha avuto sempre a disposizione Gullit, Van Basten e Rijkaard, però ha sempre provato a giocare quel tipo di calcio. Cioè, c'è qualcosa in comune con questa filosofia? E che cosa ci senta di dire, visto che oggi praticamente di fatto si chiude un'era? Sì, se devo essere sincero, parlo per me, c'è un filo di tristezza nella chiusura di quest'era, perché l'ho vissuta più da spettatore, nel senso che l'avversario. Sì, perché in realtà quel Milan era, io credo che ci siano stati tre grandi squadre negli ultimi 30 anni, no? Che per molti hanno vinto, ma chi ha lasciato veramente un segno forse era l'Ajax di Cruyff, era il Milan di Sacchi o di Van Basten, usiamo il termine che vogliamo, e il Barcellona, quindi è una delle tre squadre che hanno fatto la storia del calcio, quindi le squadre che sono sotto Berlusconi. Quindi la chiusura di quest'era è un filo di tristezza per me e per tutti gli amanti del calcio, questo senza ombra di dubbio. Per quanto mi riguarda è evidente che tutto questo è stato possibile perché c'è stata una grande gestione, un grande allenatore, ma ci sono stati anche i grandi calciatori, perché senza i grandi calciatori non si può ottenere risultati ovviamente, che sono stati ottenuti. Quindi c'è la volontà nostra, chiaramente a livello nazionale è leggermente più difficile, soprattutto a livello di qualificazioni, perché avendo 3 giorni a disposizione è abbastanza evidente che qualsiasi calcio organizzato non può essere assolutamente perfetto, perché in 3 giorni solo un presuntuoso può dire di riuscirci. Mentre invece, se per caso riusciamo, spero con tutto il cuore, di andare al Mondiale, allora avendo un mese praticamente a disposizione, io credo che in un mese si possa fare qualcosa di ritagliarci uno spazio da protagonisti, quindi facendo un calcio diverso. Ma io sono perfettamente d'accordo con lei. Guardi, la frase che ha pronunciato e che ha fatto il giro dappertutto: se andiamo ai mondiali possiamo essere la sorpresa. Io quel se lo levo, poi lei lo lasci pure. Io perché, sai, io vengo dalla strada, quindi io no. Le mie certezze le ottengo con il lavoro, non c'è dubbio, con le parole. Però mi consente di levarlo, poi lei lo lascia. Sì, certo, io lo voglio levare. Tanto... No, io invece lo metto, perché vengo anch'io dalla strada e poi sono carattico. Quindi diciamo nella improbabile ipotesi che si possa andare al mondiale. Se l'improbabile ipotesi. Posso sapere se sei più orgoglioso dal punto di vista del presente o del futuro? Cioè, questa squadra è in corsa per arrivare prima in un girone tra l'altro complicatissimo, perché il girone con Spagna e Italia è già abbastanza una follia, è in corsa fino a prova contraria, ha pareggiato certo in casa lo scontro diretto, bisogna andare a vincere lì, non è facile, però è in corsa, e poi c'è il playoff eventualmente. Sei più orgoglioso di questo o sei più orgoglioso delle cose che sono successe in questi ultimi 12 mesi? Perché c'è sicuramente un po' una rinascita, ovviamente lo dobbiamo anche al fatto che ci sono giocatori bravi giovani, però anche al fatto che mi pare che stai lavorando bene con le società, gli stage, c'è collaborazione con i club, insomma, quale dei due scenari ti orgoglisce di più? Sempre partendo dalla strada ho imparato che devo fare un passo alla volta, quindi se posso usare il termine orgoglioso, l'hai usato tu, lo sono più dell'attualità che non del futuro, perché il futuro deve ancora venire, però è strettamente collegata la cosa, nel senso che quando siamo partiti ho dovuto fare una riflessione, eravamo nella nazionale più vecchia degli ultimi 30 anni agli europei e c'era da fare una qualificazione al mondiale, soprattutto poi c'era il futuro di questa nazionale, allora bisognava prendere atto di era necessario un cambiamento. Che tipo di cambiamento? Io sostenevo da tempo che c'era un'infornata di giovani di grandi potenzialità, magari alcuni non ancora pronti, ma con la prospettiva di diventarlo a breve termine. Quindi ho iniziato e ho chiesto, devo dire grazie sinceramente a tutte le società, a tutti i presidenti, a tutti gli allenatori che hanno dato disponibilità, mi hanno dato, perché poi in realtà ero in prima persona, ho fatto il giro d'Italia in tutte le società, mi hanno dato disponibilità, abbiamo iniziato. Alle parole abbiamo fatto seguire abbastanza i fatti, nel senso che 7-8 giocatori hanno già esordito e sono tutti giocatori sotto i 23 anni. Io credo che oggi noi, quando dico se, lo devo dire per rispetto e per, se posso usare un termine tra virgolette, di umiltà che dobbiamo avere, ma sono assolutamente certo che il futuro, già al mondiale se dovessimo andare, ma poi proiettato nell'immediato futuro, credo che probabilmente avremo fatto un ricambio generazionale che cambierà la storia della nazionale. Esattamente, è questo che è uno dei grandi temi che mi stanno a cuore, mister, perché abbiamo passato anni a frignarci addosso, a piangerci addosso sul fatto che i nostri giovani non giocavano, che i settori giovanili erano sfioriti, che gli stranieri ci soffocavano, ed esce questa generazione che praticamente coniuga la nazionale del passato, perché abbiamo a oggi la difesa più forte del mondo, che è quella che lei schiera abitualmente ed è quella della Juventus, e abbiamo un ricambio generazionale già pronto. E allora come lo spieghiamo questo? Ma lo spieghiamo con il coraggio di fare le cose, perché quando io ho convocato Gagliardini per la prima volta aveva fatto se no 8 partite in Serie A. Sì. Sì. Io ho visto 2 volte di seguito l'Atalanta e ho detto è un giocatore dalle potenzialità, quindi l'ho convocato. Appena l'ho convocato, puntualmente, che non c'era l'abitudine a questo, ci sono stati sorrisi ironici, qualcuno diceva ha bevuto, eccetera, eccetera. E esattamente un mese dopo andava per una cifra importante all'Inter. Amica. Quindi, allora, questo vuol dire che se io non avessi mai avuto, adesso è un esempio, chiaramente, non sto parlando di me, sto parlando in generale, se io non avessi avuto il coraggio di convocare Gagliardini, se Gasperini non avesse avuto il coraggio di schierare il Caldara, Spinazzola e Gagliardini, lo stesso i Conti, probabilmente non avrebbe fatto quel tipo di campionato, e via avanti così, con il Milan ce ne sono tanti. Quindi abbiamo, credo, aperto una strada, che è quella del coraggio, dell'avere il coraggio di pigliarci delle responsabilità per poter creare qualche cosa che, ripeto, non sia fine a se stessa, ma sia... Io credo che noi abbiamo dato un senso di appartenenza. I giocatori che vengono allo stage vengono con un entusiasmo, con un'energia incredibile, magari non tutti sono pronti per la nazionale, però tutti incominciano a capire cosa significa far parte della nazionale, che significa, che capiscono che cosa significa rappresentare la nazionale. L'esempio di Spinazzola, dico Spinazzola perché il primo nome che mi viene in mente è lampante, no? Ha fatto, credo che abbia giocato un girone d'andata in Serie A, non aveva mai giocato, è entrato in Olanda, è entrato come se facesse parte della nazionale da sempre. Quindi direi che abbiamo creato i presupposti per far sì che, infatti io ho detto in tempi non sospetti, ho detto non so se l'Italia vincerà questo mondiale, ma crediamo, siamo assolutamente convinti che stiamo seminando lo zoccolo duro per vincere quello successivo. Quindi se per caso dovesse succedere, vuol dire che abbiamo messo qualcosa di nostro. Infatti è una nazionale che piace a tutti, è una nazionale che mette d'accordo tutti. Lascio l'ultima domanda per Luigi Pardo. Ma le chiedo di Insigne, perché mi sembra che insomma la crescita di questo ragazzo quest'anno... Scusa, non ho capito. No, volevo sapere di Insigne, se è il giocatore che può rappresentare. Mi sembra che abbia preso, diciamo, una crescita tecnica che lo possa rendere un punto fermo per anni. Non ma è credo una formazione, sia proprio, però... Credo che sia un punto di arrivo nel piano della maturità, perché le qualità tecniche di Insigne sono sempre state queste, negli anni passati aveva avuto sprazzi di qualità assoluta, la continuità con cui ha giocato questo campionato e sta giocando questo campionato, e credo che sia sinonimo, Insigne è ancora giovane, quindi è sinonimo che la maturità è arrivata, e credo che sia un punto di riferimento, un punto fermo di questa nazionale. Quindi, ma come lui ce ne sono tanti altri, ci sono un'infinità di giocatori che si sono affacciati, hanno dato conferma, basta pensare ai Bellotti e tanti altri, cioè che secondo me hanno fatto bene ma possono fare meglio. E attraverso, ripeto, la maturità del singolo, attraverso la consapevolezza delle proprie qualità e sapendo anche qual è la strada da seguire per potersi migliorare. Io credo che siamo sulla strada giusta, perché tutti questi giovani sono integrati con quelli che prima diceva, sono quelli meno giovani che sono assolutamente fondamentali, fondamentali sia in campo che poi fuori. Poi posso dirle, mister, a me sembra che una generazione di gran bravi ragazzi, non ci sono più i mattocchi che abbiamo visto nel passato, talento, sregolatezza, ne ho conosciuti diversi di questi ragazzi qui di persona e mi sembrano tutti dei ragazzi di un'altra generazione. Ma io ho interpellato in maniera informale, ho detto che sono stati sia gli stage sia i ritiri della nazionale sono stati ritiri di una piacevolezza impregnati di professionalità, serietà e allegria, che è una cosa difficile da trovare a livello nazionale, e ripeto, con tanti giovani nuovi. Quindi devo dare atto che siamo, credo, no, lo dico sottovoce, mi auguro, siamo sulla strada giusta, ci sono i presupposti per stupire di un prossimo futuro. Grazie mister, tra l'altro ha una voce molto radiofonica Giampiero Ventura, quindi lo convocheremo ancora presto e con grande piacere. Grazie a tutti. Grazie a Giampiero Ventura, commissario tecnico nazionale italiana. Siamo un po' in ritardo sulla borsa, penso ne valesse la pena, mi scuso e la lancio subito. Tutti convocati. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Ore 14:04 del 13 aprile 2017, le firme sono state apposte, il Milan non è più di Silvio Berlusconi ma passa in mani cinesi. Credo che uno degli uomini più felici del mondo sia Marco Bellinazzo, perché la telenovela è finita. Marco, in un minuto, nonostante Bellinazzo sia chiaramente tifoso del Napoli, questo lo sanno anche i sassi, dimmi tutto. Beh, questa mattina sono partiti come previsto i bonifici, ci hanno impiegato un paio d'ore a fare il loro percorso nei circuiti finanziari per ottenere tutte le certificazioni del caso, e dopodiché nello studio legale Gianni Origoni Grippo, dove erano riuniti tutti i maggiorenti delle due parti, si è potuto apporre le firme e sancire quello che è la fine di una delle fasi comunque più luminose della storia rossonera, l'era di Silvio Berlusconi, con il passaggio quindi del Milan a quella che era SES, che ora in realtà è la società di Yong Yoli, e vedremo ora nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quali saranno il futuro rossonero, in attesa poi di capire domani con l'assemblea quello che sarà poi l'assetto definitivo e la governance con la nuova dirigenza, quindi che prenderà in mano le redini del club. Eh sì, perché il difficile, l'interessante, ciò che interessa ai tifosi del Milan inizia adesso, non con le firme. Pierluigi Pardo, non mi aspettavo che Ventura parlasse di tristezza a proposito di questo momento. No, beh, ma è Ventura, nostro ospite pochi istanti fa, dimmi. Ventura chiaramente è uomo super partes, non è milanista, però no, ma non sto dicendo che è milanista, però quello che diceva Filippo Maria Ricci prima, insomma, voglio dire, stiamo parlando della fine di un'era, quindi tutte le cose che passano ci danno un po' di malinconia, anche semplicemente perché voglio dire ci sono gli anni che passano. E poi quella è stata un'epoca straordinaria, no, non ci trovo niente di strano, di particolare. Di così strano. No, volevo chiedere a Bellinazzo se, insomma, che lettura può dare alla fine di tutta questa vicenda. Io, come, tante persone a un certo punto pensavano male, sembrava che non ci fosse, no? Sembrava che fosse un tentativo per perdere tempo, ne abbiamo sentite tante ricongetture. È stata oggettivamente molto complessa, insomma, no? Se vediamo anche rispetto a quella dell'Inter, quindi ci stava pure ovviamente nel paese dei complottisti poter pensare male. Ma che lettura dà di tutta questa vicenda? Qual è stato il passaggio chiave? Che facesse una sintesi, esatto, qual è stato il passaggio chiave e facesse una sintesi, una vicenda che dura da anni ormai. Guarda, io credo che il problema a un certo punto sia stato il fatto che Lee Ho-young, che aveva ricevuto determinate assicurazioni sull'appoggio da parte del governo di Pechino a questa operazione, probabilmente ha ricevuto operazioni da soggetti sbagliati, che alla fine non hanno potuto garantire l'appoggio non solo politico ma anche proprio delle istituzioni finanziarie, di quelle che venivano indicate nel contratto preliminare del 5 agosto. E di conseguenza questa operazione si è mossa fuori dal contesto politico del processo di espansione del calcio cinese in Europa, e per di più si è trovata poi a scontare il problema delle oggettive restrizioni finanziarie poste dal governo di Pechino, certo, certo. Di capitali, ma credo che fondamentalmente sia legato proprio a un problema politico che ha trovato Lee Ho-young e che non è risolto, perché ora Lee Ho-young dovrà trovare dei soci, altrimenti ricordiamo che formalmente il Milan è suo in questo momento, ma c'è impegno a un fondo americano, cioè Elio. È una società impegnata nel senso legale del termine. Ringrazio Marco Belinazzo e salutiamo insieme Pierluigi Pardo, un amico come Luca Serafini. Ciao Luca. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Senti, tu sei dell'idea di Briatore, che peraltro è stato pure nostro ospite l'altro giorno e che ha detto, non a noi ma ad altre parti, quella di vendere il Milan è stata la migliore idea di Berlusconi degli ultimi 20 anni. È molto raro che io mi trovi umilmente d'accordo con Briatore, pur applaudendo per quello che è riuscito a fare nella sua vita e nella sua carriera. Non si tratta di una cosa intelligente, ma una cosa fisiologica. E io personalmente siamo, come giornalista sportivo, più interessato ovviamente alla parte sportiva. In questo momento c'è un minimo di autoreferenzialità, perché ho avuto la fortuna di seguirlo proprio passo passo dal primo giorno, dal febbraio del 1986, per una coincidenza della vita, passare a Sorrisi e Canzone nella redazione di Forza Milan nei giorni e nelle settimane in cui si chiudeva la trattativa, l'acquisto del Milan, fino al 2013 attraverso TPU, Mediaset, eccetera. Secondo i fatti l'epopea si è chiusa con lo scudetto del 2011. Sono felice per Berlusconi, che meritava di chiudere con un trofeo, quello di dicembre a Doha, seppure piccolo oppure poco importante, però comunque con un trofeo, e sono d'accordo con Pierluigi, non c'è nessuna tristezza, sarebbe un po' anacronistico in un'epoca in cui soltanto le guerre e il terrorismo stanno minacciando una globalizzazione senza confini, con una risposta americana che ne è una conseguenza, ma per il resto ormai io vivo a Milano da 15 anni alle soglie, proprio al confine del quartiere cinese, ci hanno messo un po' di anima, si sono integrati, quindi il fatto del Milan agli italiani, ai milanisti, ai brianzoli, mi sembra molto superato dagli eventi della storia. La cosa più importante è capire intanto la malinconia, come diceva Pierluigi, perché un po' abbiamo vissuto più giovani, innanzitutto questa epopea, perché è stata un'epopea. Siamo diventati più importanti noi giornalisti sportivi, grazie al Milan che dopo molti anni, nel 1988-89, ricominciò a viaggiare in Europa e nel mondo, ed era molto tempo che una squadra non lo faceva, e per quello che è stato il Milan. Esaurita la malinconia, si deve guardare, come guardano immagino tutti i tifosi, al futuro. Esatto, bisogna guardare al futuro. Luca, ti interrompo un attimo perché abbiamo il traffico, ma poi andiamo sul futuro, che io vedo piuttosto nebuloso, ma magari sono pessimista. Tutti convocati. Tutti convocati. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta Tutti convocati. Dunque, tanto per la cronaca, Pierluigi Pardo è sull'aereo e tra poco arriva la hostess che gli intima di appendere il telefono. Mi fai fare una domanda a Luca? Ultimamente il Milan ha regalato certamente poche soddisfazioni e si è legittimamente beccato molte critiche, ma dovendo fare una sintesi di questi 31 anni, c'è stato un eccesso di critica negli ultimi tempi, per carità, assolutamente normale, perché poi è ovvio che tutti noi siamo chiamati, quindi figuriamoci i tifosi che per una squadra mettono l'anima e i soldi, siamo tutti abituati a commentare il presente cambia continuamente, però insomma, qual è la sintesi definitiva che si può dare questa partita di questi 31 anni, non soltanto della parte finale di questa esperienza che certamente non è stata all'altezza? Ma sai, a parte le stranezze più che le dietrologie sia di comunicazione che di eventi di questa trattativa, parlando solo della parte sportiva, prima delle critiche parlano purtroppo i fatti, allora abituati a una grandeur con 7 finali in 26 anni in Coppa dei Campioni, in Champions League, con gli scudetti, con i palloni d'oro, con le squadre che hanno cambiato la filosofia del calcio, trovarsi improvvisamente dal 2012 con una squadra ridotta in questi termini, con un presidente che aveva esonerato poi tra l'altro neanche tecnicamente tutti e tre allenatori in 26 anni, poi ne ha cominciati a mandare via dal 2013 quanti Zamparini o Moratti, è questo che ha suscitato le critiche, sono stati i fatti. È stato Berlusconi che si è messo nelle condizioni, perché fosse stato un percorso più soft nel 2012, cioè sono stanco, ho dato tanto, ho dato tutto, adesso tiriamo un po' il cordone alla borsa e facciamo un Milan di giovani con una strategia, e subito si è partiti con Cristante e Saponara venduti e Sienti arrivava. Queste contraddizioni hanno sollevato questa serie di critiche e alla fine i risultati, che sono i più deprimenti. Purtroppo abbiamo perso questa alla fine, vediamo di ribeccarlo al volo. Pierluigi, sei in grado, prima di lasciarti andare, di lasciarti volare verso l'Italia da Monaco di Baviera, sei in grado di disegnare, di immaginare uno scenario adesso? Ma io credo che Fassone abbia un ruolo importante, credo che abbia avuto un ruolo decisivo anche nel trovare delle garanzie in uno dei momenti più caldi della trattativa, che avrebbe in testa un'idea di un mercato che non penso sarà all'inizio altisonante, però credo che ci sia un budget, cioè, da quello che so c'è un budget, il budget sono i 50-70 milioni di euro per nuovi investimenti, magari da dividere e da spalmare su più anni attraverso il sistema degli ammortamenti. Insomma, io mi aspetto un Milan che in questa fase sarà in grado di competere, non farà cose stellari. E poi non escludo che ci possa essere addirittura uno scenario tipo quello dell'Inter, cioè questa operazione qui poi possa portare a un altro grande gruppo che possa intervenire. Cioè tu dici operazione alla Toir? Beh, no, non lo so. Non potrebbe dico essere un'operazione alla Toir. Io penso che loro vogliano fare le cose fatte bene, a giudicare dalla complessità, al di là di tutti gli aspetti politici che ci raccontava Benignazzo, che sono veri, perché ovviamente in quel tipo di economia l'aspetto statale, l'aspetto governativo è fondamentale. Era un momento in cui il governo diceva andate sulle squadre di calcio, investite, sì, certo, come se non ci fosse domani, poi invece è cambiato e questo sicuramente ha inciso. Poi magari tanti si sono fatti delle dietrologie, ma la conclusione di oggi dimostra che quelle dietrologie, ancorché legittime, erano assolutamente sbagliate, quindi era tutto assolutamente normale e complicato, e io penso che insomma questo gruppo terrà la squadra in maniera competitiva, farà degli investimenti. Non posso escludere che, essendo il Milan un grandissimo club di una fama e di una tradizione enorme, poi qualcun altro possa avvicinarsi. È più facile, più facilmente scalabile oggi che prima. Certo, innamorato e molto ricco. Pierluigi, grazie, ci sentiamo domani. Buon ritorno. Luca Serafini, in un minuto, lo scenario che immagini adesso, perché io vedo grande confusione. Sì, in effetti c'è grande confusione. Io confido molto in Vincenzo Montella, dico la verità, cioè che possa tracciare delle guide tecniche credibili e percorribili per i nuovi proprietari, che li possa accompagnare. Personalmente spero alla fine. Ma tu pensi che resti Montella? Non ho capito. Pensi che resti Montella? Io lo spero ardentemente, non capisco chi meglio e chi più di lui potesse moltiplicare i pani e pesci quest'anno come ha fatto. Ah, su questo sono d'accordissimo. Sarebbe un delitto mandare via Montella, veramente un delitto, spero che non sia fra le opzioni della nuova proprietà, anche se mi rendo conto che è più uomo di Galliani che di Sassone, però vorrei che continuassi in questo senso a contare ancora un filo di più Galliani per accompagnare la nuova proprietà, se devo essere sincero. Grazie Luca, ci sentiamo a presto. Voi, buona giornata. Ciao, ciao Luca Serafini. Allora, ci fermiamo per il GR e poi avremo un altro commissario tecnico, dopo quello della nazionale italiana, il suo avversario, commissario tecnico dell'Albania, Gianni De Biasi, per parlare di allenatori, di calcio europeo, di tutto quello che volete, anche voi, 800 24 00 24. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. No, la prestazione della Juve non mi ha sorpreso, mi ha sorpreso la prestazione del Barcellona. Ti ha sorpreso questa lezione della Juventus al Barcellona, questo 3-0? No, non l'ho vista la partita perché eravamo guardando un paio di video della nostra squadra. E quindi, insomma, niente, nemmeno sentendo, leggendo i giornali? No, perché non leggo i giornali prima della gara nostra. Dobbiamo fare una seconda partita, non ci abbiamo vinto niente, abbiamo vinto stasera, però dobbiamo fare una partita ancora e sicuramente che noi dobbiamo ancora soffrire per passare, poi vediamo. Però fa paura questa Juve. Sì, bella squadra. Ma è l'ultimo costruttore della somma perfetta. Come vedrebbe il ripetersi degli eventi con Allegri al suo posto e la Juventus al posto dell'Inter? Non è un problema mio. Ancelotti, un bugiardissimo e un po' paraculo Simeone, Zidane e Sua Maestà José Mourinho, queste le voci che avete appena sentito sulla Juventus. Beh, oggi direi puntata storica di Tutti Convocati con l'intervento di Ventura, commissario tecnico della nazionale italiana, con 14.04 per i feticisti dei momenti storici, il momento in cui il Milan è stato venduto nella giornata di oggi, e ne abbiamo parlato ampiamente. Ovviamente torneremo a parlarne anche domani perché sono un sacco di reazioni, sia con gli sms, sia con WhatsApp, sia attraverso le telefonate 800 24 00 24. Ma questa è una puntata da grandi ospiti, quindi mi scuso con gli ascoltatori se avremo poco spazio per loro, perché abbiamo un altro commissario tecnico, come prima vi avevo anticipato, nello stesso girone di quello che abbiamo sentito prima, cioè Giampiero Ventura, è un nostro amico Gianni De Biasi. Ciao Gianni. Ciao a tutti. Senti, Ventura, tutti i radioascoltatori. Ventura mi ha detto che ti batte anche al ritorno poco fa. Beh, direi che sarebbe quello che tutti si auspicano, no? Di poter vincere anche la partita di ritorno in Albania. Ma le potenzialità delle due squadre non sono. No, adesso tu mi devi dire. Adesso tu mi devi dire. Beh, avranno vita dura, li battiamo noi. Così facciamo titolo. No, ma l'ho detto l'altra volta e quindi cambio strategia. Ah, cambi strategia? Ah, cambi strategia, Gianni De Biasi, hai capito. Senti, Juventus impressionante, abbiamo sentito Ancelotti, l'ha detto chiaramente, Simeone, il Ciolo ha fatto lo gnorri. No, non so niente di quella partita lì, guardavamo i nostri video i giornali non li leggo, farà meglio dargli un'occhiata, secondo me. Sì, credo di sì. Vista anche la prestazione dell'Atletico ieri sera, ho visto più sinceramente il Bayern di... anzi in realtà il Real Madrid di Zidane che non il Bayern di Ancelotti, però avevo i due monitor vicini e ogni tanto davo una sbirciata all'Atletico di Madrid. A me ha sorpreso, vabbè, l'Atletico Madrid piazza Pullman davanti alla porta, questo lo sappiamo, poi il golletto lo trova e non prende mai gol la squadra più catenacciara d'Europa e questo lo sappiamo perfettamente, però qui fanno il culo ad Allegri se non incanta. Invece no, il Ciolo nell'alto dei cieli, ma comunque questi sono questioni loro, credo che siano comunque due filosofie completamente diverse. La Juve è stata costruita per diventare una squadra vincente e che nel suo DNA doveva dare spettacolo, e secondo me l'altra sera contro il Barcellona lo ha dato, ha fatto una grande prestazione, ha giocato in maniera intelligente, è molto raccolta, è pronta a ripartire, a sfruttare quelle che sono un po' le debolezze dell'undici catalano, e credo che la parte difensiva sia l'anello più debole di quella squadra, anche se davanti purtroppo ultimamente non brilla il fenomeno Messi. In questo momento fa, ma non è il Messi di un anno o di due anni fa, e credo che questo si ripercuota sul rendimento della squadra. Sì, in compenso abbiamo visto quello che tutti dicono essere il suo erede, cioè Pablito Dybala. A proposito di Pabliti, ieri Paolo Rossi ha detto: per me in questo momento il più forte del mondo. È un giocatore che ha un talento straordinario ed è in una fase ascensionale pazzesca, perché è un 94, un giocatore che ha davanti a sé il futuro. Mi sembra un ragazzo che è stato gestito anche bene, è stato inserito con gradualità, magari ha morso il freno più di una volta per giocare, però credo che alla fine la strategia di Allegri sia dimostrata quella vincente, che ha fatto bene il ragazzo, secondo me. Sì, indubbiamente, ma io continuo a ripeterlo, sono un allegriano convinto, mi scusi se insisto, la vittoria dell'altra sera ha avuto due grandi protagonisti, uno appunto Dybala in campo, l'altro Allegri per come ha impostato la partita, perché quando ho visto in formazione Alessandro al posto di Asamoah ho detto vabbè, questo è veramente una genialata, perché ha trasmesso al Barcellona il messaggio: ragazzi, questa sera siete nostri, almeno io l'ho letta in questa maniera. Perché per costruire una squadra così piena di giocatori offensivi, e qui penso a Mandzukic su tutti gli altri, devi anche essere bravo a convincere, ne parlavo ieri, non ricordo con chi in trasmissione, devi essere anche bravo a convincere giocatori importanti con contratti importanti a rinunciare ad un po' della loro grandezza, e qui sto pensando anche al Milan di Ancelotti, Seedorf, Shevchenko, Inzaghi eccetera eccetera, tutti in campo. Carlo, credo che tutte le squadre che si sono dimostrate grandi squadre hanno avuto l'umiltà in tanti giocatori importanti. Mi riferisco a Rooney, per dirti, nel Manchester United, che faceva i terzini, a Eto'o che faceva il terzino nell'Inter di Mourinho, si abbassava e che si sacrificava. Qui è stata una scelta, secondo me, forzata, quella di Mandzukic, di fare quel lavoro lì, ma lo fa con umiltà e lo fa dando un grande rendimento anche sia in fase difensiva che in fase offensiva, e al tempo stesso lo doveva fare, perché a quel punto lì, avendo Higuaín davanti, Dybala che è un talento straordinario, o giochi là, ti sacrifichi e corri, oppure rischi di star fuori. Quindi credo che alla fine della fiera il fatto di andare in campo e di fare le prestazioni che fa non bisogna darle per scontate, ma è che c'è voglia di far parte di una squadra. Assolutamente. Gianni, salto di palo in frasca, oggi giorno storico, il Milan passa di mano ufficialmente, 14.04 le firme, non è più di Berlusconi dopo 31 anni, una vita con 29 trofei. Poco fa Ventura ha parlato di tristezza che prova. Tu cosa provi? Diciamo che è più o meno la stessa sensazione. Il Milan, squadra, una delle squadre più vittoriose degli ultimi anni, che è costretto, non so, gioco forza, passa di mano. Io credo che non possa che suscitare questo sentimento qui, perché il Milan è sempre stato identificato con la proprietà, con i trofei vinti, con una mentalità e con una struttura veramente di primo livello. Magari in questi ultimi anni ha lasciato un po' a desiderare, magari in qualche scelta o perché la società si vedeva che non aveva più quella forza e quella pill, certo. Che aveva negli anni precedenti. Però tutto sommato credo che sia stata la scelta d'amore fatta dal proprietario per cercare di dare una continuità e possibilmente di rivederla vincente in sì. poi vediamo di che pasta sono fatte sti cinesi. Esatto. Bisogna metterli a prova. L'importante è che si affidino a persone che sono capaci e che possono immaginare che il calcio non è business, ma fa parte di tutta un'altra filosofia. Sai, importante, io sono un prosaico, l'importante è capire quanto grano hanno. Bravo. In tasca, perdonami, perché a me mi sembra un'operazione. Sì, è stata un po' una menata alla Toir. Mi sembra un'operazione alla Toir, e auguro al Milan che possa essere un'operazione alla Toir, che poi arrivino quelli veri e non questi che mi sembrano buoni come le banconote da 300 euro. Comunque sarò cattivo, io non so cosa dirti. Salto sempre di palo in frasca, e ne ho parlato anche di questo, ho parlato prima, ma tu ti sei trovato in una condizione del genere similare? Secondo me, al di là dei calendari, della sacralità dei calendari e degli impegni, la partita di Dortmund ieri è stata, cioè l'aver giocato ieri è stato vergognoso. Falsata, è stata una partita falsata, e tanto vero che io ho una banconota da 300 euro. Sì, bravo, bravissimo, questa è stata falsata veramente, perché credo che i giocatori del Dortmund non fossero nelle condizioni di poter giocare una partita. Ho visto degli errori madornali per giocatori che ho visto giocare a livelli diversi. Che conosci bene. È chiaro, e io credo che qualcosa dal punto di vista della serenità, della tranquillità in terra, questi ragazzi non ce l'avevano, e dover giocare una partita dopo pochissime ore da quell'episodio che ti tocca, alla fine si ripercuote. Si parla di attentato di cui sei stato oggetto. Alla propria vita, alla propria incolumità fisica, tu puoi non tornare più a casa, questo è il discorso più incredibile. E nonostante tutto questo hanno dovuto giocare, con le conseguenze che poi abbiamo visto sul campo. Sì. Una squadra che non ha espresso nulla, perché probabilmente nulla aveva da esprimere. Ma nulla aveva da esprimere, aveva la testa da un'altra parte. Esatto, era chiaramente una squadra sotto shock. Prima Filippo Guerrieri ci ha fatto l'esempio, cioè se mi metto una bomba sotto una macchina, io banalmente il giorno dopo, anche se sto bene, non vado a lavorare. Bravissimo, perché un minimo di shock addosso ce l'ho. Quindi i signori dell'UEFA, secondo me, avrebbero dovuto prendere delle decisioni molto difficili, ma anche al tempo stesso molto coraggiose in una situazione particolare come questa. Sicuramente, ma siamo sempre schiavi dei tempi e dei calendari. Sì, dei tempi, dei calendari, però se siamo schiavi dei tempi e dei calendari siamo anche abbastanza schiavi della paura, Gianni. Appunto. Si poteva tranquillamente spostare la partita di qualche giorno, si spostava la partita di campionato, probabilmente dei propri campionati, e si trovava un compromesso con le varie federazioni e la cosa si poteva risolvere in maniera diversa. Ma quella lì è una partita che falsa completamente il cammino di una squadra come il Borussia Dortmund, che è una squadra di altro livello. Sì. Ieri sera sembrava una squadra in campo che aveva altro per la testa, con dei fantasmi in campo, perché non c'erano minimamente con la testa. Vedi, stasera ti guardi in TV commentare l'Europa League, tutti contro Mourinho, ma mi sembra che sia rimasto poco a contrastare lo United. Che sia l'unico che può vincere veramente quest'anno l'Europa League, in termini di tecnici, in termini di possibilità, credo che sia insieme al Lione la squadra che più ha possibilità. Gianni, ti ringrazio, come sempre. È stato un piacere, come piacere sempre. Mio, ciao. Come sempre. Ciao. Ciao Gianni De Biasi. Grazie, ciao. 800 24 00 24, vi ricordo, questo è il numero verde. So che abbiamo ricevuto un miliardo di telefonate, so che i milanisti, non milanisti, vogliono dire la loro. Domani, allora, ve lo prometto, ampio spazio agli ascoltatori, al telefono, attraverso i messaggi e tutto quello che volete, per parlare, per tornare sull'argomento nazionale, visto che prima abbiamo intervistato Gian Piero Ventura, che ha detto anche cose molto interessanti per tornare sull'argomento Milan, tristezza o magari preoccupazione per il futuro, perché insomma io fossi un tifoso del Milan tanto tranquillo non starei, visto il tipo di operazione che è stata ormai conclusa. E però si tratta di capire adesso come verrà disegnato il futuro. Io ho detto dall'inizio che una prima mossa intelligente era stata fatta da questo gruppo cinese, che era stato quello di trovare comunque un uomo forte in Italia. Questo uomo è stato identificato in Fassone, però adesso quel gruppo che c'era all'inizio si è sfaldato ed è rimasto un broker che ha racimolato denaro qua e là. Salto di palo in frasca con grande piacere e saluto il mio amico Guido Bagatta. Ciao Guido. Buongiorno a tutti. Beh, lo chiedo anche a te, visto che è la domanda del giorno, che effetto ti fa un Milan berlusconizzato? Ma è finita, cioè nel senso ero occupato in altre cose, questa volta è veramente così. 14.04 di oggi, penna inchiostro sulla carta. Allora, io dico solo una cosa: tanta fiducia in tutti, quando ci sono di mezzo i fondi, siccome non sono delle società benefiche, no, prestano soldi perché vogliono guadagnare, e credo, sì, che ci sia già una percentuale che il fondo americano vuole ricavare da questo, bisogna, tra virgolette, stare un po' attenti, ecco, solo questo. Il fondo americano si chiama Elliott, ha prestato... Ha prestato 180 milioni per la chiusura dell'operazione. Il tasso di interesse 12%, sì, 12%. Che in Italia è chiaramente fuori legge il tasso di interesse. Beh, però è fuori legge se io presto i soldi a te o se una banca li presta a te. Nel mondo della finanza sto dicendo in Italia per le leggi italiane. No, assolutamente non ci sono quel tipo di parametri. Ma d'altra parte, scusami, altrimenti poi parliamo di basket, credo che tu sì. D'altra parte, che motivo avrebbe un fondo che gestisce in realtà pensioni di ferrovieri della North Carolina piuttosto che di boscaioli dello Yucatan, dello Yukon, che motivo avrebbe entrare in una situazione del genere? Lo fa per un interesse finanziario. Questo è naturale, punto. Basta, è solo quello. Quindi c'è questo problema qui, che al di là di tutto, oltre ai soldi adesso per il mercato, per tutto quello che c'è da fare, c'è uno che li rivuole indietro in un tempo piuttosto breve, se no si prende tutta la baracca. Senti, e qui basta. Punto. Cleveland seconda nella sua conference, quando tutti davamo già per, dopo la vittoria con Boston, stiamo parlando ovviamente di stagione regolare NBA che è finita stanotte e di playoff che sono alle porte. Cleveland seconda, ma sono 6 anni che ad est la finale la gioca il signor LeBron James. Sì, beh, tra Cleveland e Miami sempre lui il protagonista. È successa una cosa un po' strana, devo dire la verità, cioè che Cleveland negli ultimi tempi, nelle ultime 3 settimane, ha avuto un record che se fossimo nel calcio italiano sarebbe da retrocessione. Sì. Ha cominciato a giocare male per mille motivi e le è andata anche bene, perché se tu guardi il record, ha chiuso con un record uguale a quello di Toronto, ma avendo poi un vantaggio sugli scontri diretti è arrivata seconda, se no sarebbe arrivata anche terza. Quanto ci sia di non pretattica ma di rilassamento, che poi nei playoff smette di esistere, quindi si comincia a giocare da un altro livello, lo vedremo. Sicuramente Cleveland ha un problema, non ha lunghi, è una squadra senza pivot. Gioca pivot Thompson, che è il più grande rimbalzista del campionato per quanto riguarda il rimbalzo in attacco, però è uno che è alto 2,5 metri, certo, e che certo, è solo lui. E in panchina c'è poco o niente, hanno preso Bogut che si è fatto male subito, quindi quello è un limite soprattutto con squadre più profonde in quel settore lì, e più o meno tutte le avversarie, ad esempio Toronto è solidissima lì in mezzo. Toronto ha aggiunto anche Ibaka negli ultimi scampoli di mercato, e quindi è questo il grosso problema di Cleveland, un po' come successe anche a Michael Jordan, no? Che aveva una squadra, quando era la squadra leggera faceva fatica, poi sì, ha trovato ai tempi, non so, io poi cito Luke Longley che poteva, che come stazza poteva contenere il primo passo di Shaquille O'Neal, e poi è arrivato Rodman che si accattava tutti i rimbalzi. Già so. Senti, Indiana e Chicago, le ultime due promosse, fuori invece Miami dopo una lunga rincorsa. Ai playoff la squadra più triste delle 16 che ci vanno, ovvero Chicago, una squadra senza senso che sta completamente smontando e rifacendo un giocattolo, e non ci arriva Miami, che negli ultimi tempi ha giocato la miglior pallacanestro che io abbia visto, con Goran Dragic che ha giocato da miglior playmaker, con, lascia perdere Westbrook che un playmaker realmente non è, ma con il piccolo Thomas di Boston, il miglior playmaker del campionato è Dragic, ha giocato con una serie di prestazioni negli ultimi due mesi, il miglior record in NBA ce l'ha Miami, d'accordo che era partita talmente male che non si è quasi più ritirata su, però è un peccato non vedere la squadra più in forma di decimali ai playoff. Ci vanno Indiana e Chicago che sono discretamente bollite e faranno una rapida dentro fuori, come si dice. Allora, turno più interessante, Guido, abbiamo ancora un minuto. Houston contro nettamente. Ma anche Toronto-Milwaukee, che è una Toronto-Milwaukee, però lì si decide l'MVP della stagione. Harden contro Westbrook. Sì, mentre il Toronto-Milwaukee secondo me si deciderà, o meglio la gente vedrà l'MVP della prossima stagione, perché il freak, the Greek freak, ovvero il nostro amico Antetokounmpo, è destinato a diventare giocatore dominante. Nulla di quello che noi umani abbiamo ancora visto è quello che potrà mostrarci Antetokounmpo nelle prossime annate. È un Kevin Durant che pesa 15 kg di più, che gioca in 5 posizioni, e che è anche molto più personaggio nel senso positivo, quindi occhio anche a quella serie lì. Vincerà Toronto, ma il greco farà la sua parte. Secco, Durant, Westbrook o il barba Harden? No, Westbrook, perché pur giocando in una squadra che non vincerà, pur tutto quello che tu sai, ha fatto una cosa, quella delle 42 triple doppie, che rimarrà negli annali dell'NBA e del basket mondiale, e quindi se non gli dai quel premio, tra l'altro Oscar Robertson, che aveva il record prima di lui, ieri notte lo ha incoronato, ha detto: per me deve comunque essere, oltre che quello che mi ha tolto le 42 triple doppie, l'MVP. Quindi non ci sono tanti dubbi, anche se ovviamente Harden se lo meriterebbe, come se lo meriterebbe Isaiah Thomas. Assolutamente. Assolutamente. Detto questo, io Westbrook, se voglio vincere un titolo di pallacanestro, è un giocatore che non prendo mai, ma questo è un discorso molto lungo che un giorno faremo. Intanto ti ringrazio, Guido. Grazie davvero. Si fa su tanti campioni. Lo si faceva anche su Gentile, ti ricordi? Come no? Ciao Guido, un abbraccio a Guido Bagatta, ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in redazione, ci sentiamo domani alle 2. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti.